Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con le riviste italiane e straniere, le nostre segnalazioni, i nostri consigli anche di lettura. Oh, questa mattina mi fa piacere cominciare con una buona notizia, israeliani e palestinesi sono alleati. Ora non sono improvvisamente ammattito, purtroppo non è così, ma almeno su una cosa si sono alleati, lo scrive Focus che potete cominciare a trovare, il numero, come sapete, trattandosi di un mensile riferito a dicembre, ma è già in circolazione, e ci avvisa proprio nella rubrica che è intitolata Buone notizie, i super nemici si alleano, palestinesi e israeliani sono praticamente in guerra, lo sappiamo, da più di 50 anni, con risultati drammatici per entrambe le parti, ma hanno trovato un'occasione di collaborazione. C'è infatti una campagna che vede uniti scienziati israeliani e scienziati palestinesi per adottare rimedi biologici e non chimici nel combattere un'invasione di roditori nella valle del Giordano, quindi un'alleanza per abbattere diciamo l'invasione dei topi. L'iniziativa è stata promossa dall'israeliano Peres Center for Peace, dall'Università di Tel Aviv e dall'Amman Center for Peace, quindi c'è i due centri della pace che si sono uniti e hanno convinto un centinaio di famiglie contadine israeliane e palestinesi a lavorare insieme per adottare nella battaglia contro i roditori che distruggono i raccolti l'uso di gufi e falchi, che sono avversari naturali dei topi. Quindi non solo i contadini, poi ci informa sempre Focus, hanno trovato un accordo, anche i risultati della nuova strategia ecologica, informa sempre Focus di dicembre, sono stati ottimi. Era la nostra prima notizia che vi volevamo segnalare, è una buona notizia, quindi direi l'ideale per cominciare una trasmissione, anche per cominciare una giornata poi di sabato in cui magari si ha un po' più di tempo per leggere, per riflettere. Allora, in realtà le cose, talvolta, come si sa, le cose migliori nascono per caso, è proprio questo il tema di una coppia di pagine che trovate su Famiglia Cristiana, che si chiama Il genio delle piccole cose, così l'hanno intitolata questa coppia di pagine, sta nella rubrica Come vanno le cose a cura di Elisa Chiari. E perché questa coppia di pagine? Perché è uscito un volume a cura di Antonio Cianci che si chiama Eureka, 100 invenzioni che hanno cambiato la nostra vita, ma soprattutto molte di queste invenzioni sono state assolutamente casuali. Ad esempio, io non sapevo assolutamente, prima di aprire questo numero di Famiglia Cristiana, che la bustina del tè in realtà non è stata inventata per metterla direttamente nella tazza o nella teiera, ma era soltanto un modo per trasportare il tè in piccole quantità. Poi i consumatori non lo hanno capito, così come non l'avevo capito io, e quindi hanno pensato che fosse più pratico, anziché aprire la bustina, metterla direttamente nell'acqua. E adesso, attualmente, il 95% del tè inglese viaggia in bustina. Avvisa appunto Famiglia Cristiana, era solo una confezione, però i clienti non lo capirono e la misero in infusione. E così appunto è nata la bustina da tè, che come invenzione diciamo non ha nulla da invidiare ad altre invenzioni fondamentali per la nostra vita. Ad esempio le gomme delle auto, le palline da tennis, i tasti del telecomando, spiega Elisa Chiari in queste due pagine, si fa presto a dire gomma, però senza un processo particolare che si chiama vulcanizzazione, è quel processo che rende la gomma malleabile da una parte ma resistente dall'altra, la gomma naturale sarebbe stata inutilizzabile e non l'avremmo avuta, spiega appunto l'autore del volume, Antonio Cianci, se il signor Goodyear, probabilmente questo nome vi dice qualcosa quando parliamo di gomme, non avesse avuto bisogno di nascondere i suoi esperimenti alla moglie. Perché la storia quindi delle gomme, della gomma che usiamo abitualmente nella nostra vita, viene proprio da lì. Siccome il signor Goodyear non voleva farsi rimproverare dalla consorte, che appunto gli diceva che stava perdendo tempo e avrebbe dovuto invece cercarsi un lavoro e qualche cosa di più redditizio, un giorno, che aveva particolarmente fretta di disfarsi del suo materiale da laboratorio, nascose la gomma nel forno di casa e non si accorse che il forno era ancora caldo. Ma questo errore gli regalò un risultato sorprendente, perché la gomma ne uscì morbida da una parte ma resistente dall'altra. E quindi questa è una invenzione che ci ha cambiato cambiato la vita e che peraltro non cambiò la vita del signor Goodyear, perché questo signore Charles Goodyear, inventore della gomma vulcanizzata, non aveva il naso per gli affari. Quando morì lasciò la famiglia piena di debiti, apprendo sempre dalla famiglia cristiana, e glieli avrebbe pagati un giorno un industriale che in questo modo volle ringraziarlo per l'invenzione che lui aveva davvero intuito cosa serviva, gli avrebbe poi permesso di fondare un impero che chiamò proprio Goodyear in onore dell'inventore, di questo inventore per caso. Apprendo poi da queste pagine che sono molte altre le invenzioni che in qualche modo hanno modificato la nostra vita e che sono nate da osservazioni casuali. Il container, che attualmente è il mezzo più utilizzato per trasportare le merci in grandi quantità, fu un'idea di un camionista che, mentre fumava una sigaretta in attesa che gli scaricassero il camion pacco a pacco, si chiese: ma non potremmo fare anche con le merci quello che facciamo con le sigarette, cioè le mettiamo tutte un po' insieme e poi facciamo delle grandi scatole? Così nacque il container. Sono alcune delle cose che appunto ho preso da Famiglia Cristiana, ma che poi potete ritrovare anche in questo volume. Tra l'altro hanno chiesto ad Antonio Cianci quali sono le 10 cose che hanno messo davvero sotto sopra le nostre vite, e la prima risposta è stata il telecomando, perché oramai ne abbiamo 3 o 4 per casa. Poi la fotocopiatrice, oggi l'abbiamo un po' superata, perché grazie alla posta elettronica, insomma al digitale, possiamo permetterci di trasferire i testi e le immagini più facilmente, però la fotocopiatrice ci ha liberato per decenni dalla schiavitù di copiare. Poi l'etichetta autoadesiva, cita ancora Cianci, perché dice: vi sembrerà banale, ma voi trovate un prodotto che non ne abbia una. I surgelati sono stati altrettanto fondamentali, perché hanno rivoluzionato il nostro modo di mangiare. E poi ancora i già ricordati vulcanizzazione della gomma e container. E tra l'altro l'acqua gasata, l'ultima cosa che vi voglio citare, nacque da un esperimento di uno scienziato che ebbe anche parecchio coraggio, perché l'assaggiò e non sapeva se poi questa cosa gli avrebbe fatto bene o male, e da lì invece si inventò l'acqua gasata. In ogni caso, che si abbia fortuna o no nel ritrovare nello scoprire qualcosa, è meglio sempre essere preparati. Da questo punto di vista, anche questa settimana dobbiamo purtroppo prendere nota di un triste primato. Ci ricorda Panorama, nel numero che è in edicola da ieri, che i ragazzi italiani sono gli ultimi in matematica. Ora, da quando curiamo un po' questo programma, più e più volte ci capita di ricordare questo ritardo, questo gap che i nostri ragazzi hanno proprio nelle materie scientifiche e nella matematica in particolare. Vi leggo qualche passaggio dell'articolo di Marco Cobianchi. Tra l'altro ci sono delle differenze tra nord e sud, ma all'interno di queste differenze forse c'è anche una buona notizia. Lasciamola un attimo lì. Intanto vi spiego da dove viene questa ennesima conferma della nostra arretratezza in matematica. Dice Cobianchi: è il crollo di un mito. Perché? Perché il liceo scientifico, cioè la scuola d'élite dei teenager, poi la fucina dei futuri ingegneri, degli architetti, dei matematici e così via, il liceo scientifico risulta, dai risultati dell'analisi Invalsi, gravemente deficitario proprio nella matematica. Cioè il 54,5% dei ragazzi iscritti al liceo scientifico non è sufficiente in matematica, lo dice l'Invalsi, cioè l'istituto nazionale che si occupa della valutazione dei risultati scolastici. Quindi più di uno su due non raggiunge la sufficienza proprio nella materia che dovrebbe essere la materia principe. Il test Invalsi, come sapete, sono diventati molto importanti, anche perché grazie a questi test i docenti che avranno i ragazzi meglio classificati potranno anche guadagnare del denaro in più. È una uno dei progetti del ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini, quindi i risultati Invalsi sono diventati particolarmente importanti. Vi dicevo però che c'è anche una buona notizia all'interno di questa brutta conferma, appunto, del ritardo in matematica proprio là dove dovremmo essere padroni della materia. La buona notizia è che il divario nord-sud questa volta è rovesciato. I ragazzi del mezzogiorno, per le conoscenze specifiche in matematica, proprio matematica in senso stretto, sono meglio piazzati dei ragazzi del nord. Come e perché, poi cerca di analizzarlo Marco Cobianchi. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Vi abbiamo segnalato l'ennesima conferma della poca dimestichezza che i nostri ragazzi, che tutti noi poi si potrebbe dire abbiamo con la matematica. Nei test internazionali è noto, ci piazziamo sempre malino, anche nei test nazionali appunto dell'Invalsi, lo ricorda Panorama questa settimana, al liceo scientifico non ci sono dei risultati brillanti, tutt'altro. Vi dicevo anche però di questo aspetto dei ragazzi del sud che sembrano meglio posizionati di quelli del nord. Voglio precisare che questo tipo di test viene fatto in modo proprio sganciato dagli istituti, quindi non c'è una possibile difformità di valutazione tra un territorio e l'altro della penisola. Quali potrebbero essere i motivi di questo miglior piazzamento? Forse anche il fatto che c'è una maggiore motivazione tra i ragazzi che al sud scelgono il liceo scientifico, che notoriamente poi prospetta un percorso più oneroso, più costoso anche per le famiglie, e quindi magari questa maggiore determinazione porta poi a dei risultati maggiori, risultati migliori, scusate. Questa è la proposta, l'analisi che viene proposta da Cobianchi su Panorama. Ma quando si parla di giovani non è proprio necessario che ci siano solo cattive notizie. Ad esempio c'è una buona notizia su L'Espresso, un'inchiesta di Sabina Minardi che si intitola significativamente "Bamboccione a chi?". Perché questo titolo un po' polemico? Perché ci sono dei giovani italiani che si rimboccano le maniche, escono di casa, si inventano lavori nuovi a dispetto della crisi. Sabina Minardi sceglie di guardare all'altra parte della statistica, cioè noi abbiamo appreso in questi mesi, in questi anni, dai giornali che c'è una ampia percentuale di giovani, diciamo fino ai 34-35 anni, che stanno con i genitori, che scelgono di restare con i genitori, che devono restare con i genitori. Su questo si sprecano le analisi sui motivi di questo comportamento, ma si può anche guardare, questi sarebbero il 58%, si può anche guardare al 42%, cioè intanto che 6 su 10 stanno con i genitori, gli altri 4 che fanno? Se l'è chiesto Sabina Minardi ed è andata un po' a curiosare. L'altro 42%, insomma, è la faccia dell'Italia giovane, scrive la Minardi, che si dà da fare, che si inventa da zero un mestiere o semplicemente afferra quello che c'è in circolazione, magari sapendo che non è il lavoro definitivo e quasi mai quello per il quale ha studiato, ma è un onesto punto di partenza per cominciare a essere indipendenti. Sono spesso lavori artigianali. Qui nelle pagine dell'Espresso ci sono anche degli esempi di giovani che in qualche modo ce l'hanno fatta, hanno sfondato. Allora, molto carina la storia di Alessandro Fogazzi, a 30 anni, è un imprenditore di orologi, perché ha scelto di importare un orologino colorato di silicone che vide per la prima volta negli Stati Uniti. Ne comprò un buon numero, la prima volta ne comprò 5, poi tornò a comprarne degli altri e visto che in Italia piacevano, i suoi amici piacevano, decise di chiedere all'azienda che li produceva se poteva lui distribuirli in Italia. Oggi il suo orologio è un orologio di successo, un orologio poco costoso, e l'ha chiamato Too Late, ricorda appunto Fogazzi, perché tutti i suoi amici, quando hanno cominciato a partire con questa attività, dicevano: peccato non averlo inventato noi. Lui gli rispose: troppo tardi, in inglese si dice too late, e appunto dal too late venne il nome dell'orologio. Ci sono molte altre storie, ce n'è una poi in particolare molto carina, quella di Riccardo Moroni, che ha 22 anni e ha deciso di fare l'imprenditore degli autolavaggi. Lui in realtà ha preso un diploma di geometra, si è iscritto a giurisprudenza alla statale e aveva una passione fin da bambino, proprio ricorda L'Espresso, per gli autolavaggi. Così ha cominciato a pensare come si potevano innovare gli autolavaggi. A 19 anni però non sapeva assolutamente niente di come fare a iniziare un'attività, anche gli interlocutori non lo trovano molto credibile, però lui si informa, insiste, indaga, elabora un progetto e comincia, racconta Minardi, ad affrontare gli uffici, la Camera di Commercio, la Provincia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Ricorda Moroni: mi serviva un mutuo, ma ero considerato troppo giovane. Questo è spesso, consentiteci questa parentesi, un aspetto critico per chi è molto giovane, magari ha un'idea, una business idea, dicono gli inglesi, o comunque un'idea per avviare un'attività. attività, che c'è poca voglia, magari poca disponibilità da parte delle istituzioni nel aiutare questi giovani, anche nel consentire loro di trovare dei finanziamenti adeguati. Infatti, racconta Moroni, il terreno, i permessi, i soldi è stata una lotta, però io sapevo quello che volevo: un autolavaggio self-service che fosse aperto di giorno e di notte, con assistenza garantita sempre, prodotti di altissima qualità. L'ha chiamato P&P Car Wash, e la cosa divertente è che P&P sta per pala e piccone, che era il motto del nonno di Riccardo, e che lui ha voluto trasferire, come a rimarcare la testardaggine che l'ha portato ad aprire questa attività. E comunque, se vi interessate di lavoro, vi voglio anche segnalare che da pochissimi giorni sono in vigore delle norme nuove sul lavoro, il collegato lavoro cosiddetto, così l'hanno chiamato i giornali, così l'abbiamo chiamato qui a Radio 24 sul Sole 24 Ore. Vi proponiamo in vendita con il nostro quotidiano proprio una guida alla riforma del lavoro, riforma che soprattutto riguarda il contenzioso, quindi momenti non belli, certo, dell'attività lavorativa. C'è un inserto in vendita con il nostro giornale che spiega proprio la riforma del contenzioso e anche tutte le altre novità che sono contenute nel collegato lavoro, in vigore, ripeto, da pochissimi giorni, e quindi con il quale è importante, sia che lo facciate proprio per vostra attività, sia che siate solo curiosi di capirne di più, è importante prendere subito confidenza. E allora continuiamo a parlare dei giovani, perché sempre nelle pagine dell'Espresso che vi citavo prima c'è una piccola intervista a Chiara Saraceno, la sociologa Chiara Saraceno, che spiega il perché dei bamboccioni, cioè dà degli altri motivi, delle altre spiegazioni e possibilmente anche qualche rimedio a questa permanenza un po' forzata dei giovani nelle famiglie di provenienza. Dice: innanzitutto non mi piace la parola bamboccioni, perché scarica sui ragazzi delle responsabilità che appartengono ad altri. La situazione però, le chiedono, è grave, anche se arriva qualche segnale nuovo di indipendenza, le storie appunto che abbiamo letto e commentato prima. È vero, dice Chiara Saraceno, le statistiche dicono che sono in aumento quelli che vorrebbero essere indipendenti ma non possono e vivono con disagio la permanenza con i genitori. Molti stanno tentando di organizzarsi e affrontare la vita. Però c'è un problema di preparazione, le ricorda Sabina Minardi, aumenta l'interesse per i lavori manuali. Dice: beh, all'estero è sempre stato così, ci sono fasi della vita nelle quali lavorare per pagarsi gli studi è un'esperienza comune a tutti gli studenti, non è un fatto legato a delle fasce sociali. In Italia non sempre queste esperienze sono state viste con favore, e se questi pregiudizi cadono poi è un bene. Andando avanti con gli anni, la incalza Minardi, questo stesso mondo dei lavori artigianali cerca ma non trova giovani, e risponde la Saraceno: anche questo non dipende dai ragazzi ma da un sistema professionale che non è adeguato a preparare i lavori manuali. C'è un problema di scuole, di orientamento, di apprendistato, che più che aiutare i giovani a crescere aiuta le aziende a contenere il costo del lavoro, dice polemicamente Chiara Saraceno. Le questioni sulla formazione naturalmente non tengono banco solo da noi. Vi segnalo in brevissimo che su Nouvel Observateur questa settimana si riporta il dibattito in corso in Francia per abolire i voti alle elementari. I voti sarebbero dannosi, brutti voti danneggerebbero appunto i giovani alunni, e quindi c'è un dibattito in corso in Francia in questo momento per l'abolizione dei voti. Con questa indicazione dall'estero si conclude la nostra puntata. Io ringrazio Paolo Corleoni questa mattina in regia, grazie anche ad Anita Panizza, benvenuta a Viola Bottoni, che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 ritorna domani mattina alla stessa ora.